e opere nelle tue mani e nelle tue opere. Il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro e la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue. O mio amato Gesù, fondo le mie intenzioni nelle tue intenzioni. Fondo il mio piccolo amore nel tuo infinito divino amore. Fondo la mia attenzione nella tua attenzione. CFR Vol. 18.01.10.1925 Gesù. Ti amo. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Vieni a formare in me la tua vita continua. Vieni a formare il tuo palpito. Il tuo respiro. Il tuo moto. Vieni a circolare nel mio sangue. Vieni. Amen. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A pregare in me e poi offri questa preghiera a te. Come mia. Per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre l'amore e la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Ad abbracciare in me tutto quello che vuoi che oggi io faccia. Che tutto sia nella tua divina volontà per darti il ricambio di amore. Adorazione. Gloria. Come se tutte le creature aprendo gli occhi ti avessero dato questo contraccambio completo. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A pensare nella mia mente. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A circolare nel mio sangue. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A guardare nei miei occhi. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Ad ascoltare nelle mie orecchie. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A parlare nella mia voce. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A respirare nel mio respiro. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A palpitare nel mio cuore. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A muoverti nel mio moto. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. A camminare nei miei passi. Per andare in cerca di tutte le creature e chiamarle a te. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Nel mio scrivere e scrivi la tua legge nell'anima mia. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Nel mio leggere ed imprimi le tue verità, come vita, nel mio cuore. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, ad operare nelle mie mani. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a soffrire nel mio soffrire e la mia anima unita con la tua volontà. Sia il crocifisso vivente immolato per la gloria del Padre. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Ad offrire nel mio offrire. Perché tutto in me chieda. Del Padre la gloria e la santificazione delle anime. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Ad adorare in me. E poiché la tua volontà moltiplica gli atti all'infinito. Così intendo darti soddisfazione come se tutti partecipassero alla santa messa nella tua divina volontà. Ed intendo dare a tutti il frutto del santo sacrificio ed impetrare per tutti la salvezza e la santificazione nel divin volere. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà in questa comunione mia con te. Vieni. Perché io intendo non solo donarti all'anima mia, ma a tutte le anime che non ti ricevono, per riparare i nostri peccati e dare gloria al Padre. Per comprendere il valore di questa preghiera leggiamo il seguente brano scritto dalla serva di Dio Luisa Piccarreta nel suo diario. Il 2 agosto 1925 Vol. 17. Mentre stavo pregando il santo voler di Dio ed immergendomi nella immensità del suo amore. Io mi impossessavo del suo stesso ti amo per poterglielo a mia volta ripetere ininterrottamente a nome di tutta la creazione e di ciascun uomo. Per ogni moto, respiro e palpito di creatura. Quasi eco incessante al ti amo che a tutti rivolgeva il medesimo amor mio Gesù. Ma dopo un momento di riflessione, domandai a me stessa. Che fai? A che serve questa tua cantilena? Allora intervenne tutto premuroso il mio amabile Gesù. Che cosa dici? Mi domandò. Figlia mia. Il ti amo è tutto. Esso è amore. Venerazione. È stima. Eroismo e fiducia verso colui al quale è diretto. Ti amo sono due piccole parole che pesano quanto l'eternità intera. Il mio ti amo racchiude tutto. Coinvolge tutti. Si diffonde. Si stringe. Si eleva in alto. Scende fin nel basso. Si imprime ovunque e giammai si arresta. Chi mai potrà afferrare il suo valore? La sua origine è eterna. Nel ti amo il Padre Celeste mi generò e nel ti amo procedette lo Spirito Santo. Nel ti amo Dio diede l'esistenza a tutti gli esseri. Perdonò all'uomo colpevole e lo redense. Mediante il ti amo l'anima trova tutti in Dio e Dio ritrova tutti in esso. Il ti amo. Quindi, è di valore infinito. È pieno di vita. Di energia. È instancabile nell'operare. Supera tutto e trionfa di tutto. È per questo motivo che io bramo così intensamente di udirlo ripetere da te. Lo voglio sul tuo labbro. Nel tuo cuore. Nel volo dei tuoi pensieri. Nelle gocce. Del tuo sangue. Nelle pene e nelle gioie. Nel cibo che prendi. In tutto. Per poter meglio corrispondere al desiderio che Gesù mi aveva espresso. Io ripensavo agli atti del suo divin volere che aveva compiuto e su ciascuno di essi ponevo il suggello del mio amore. Nella sua bontà. Il mio Signore. Mi mostrò la sua adorabile persona tutta coperta del mio ti amo. Esso ne portava l'impronta sulle labbra, sulle mani, sulla punta delle dita, dappertutto. Figlia mia meno, mi disse egli con tenero accento vedi quanto gioisco della tua premurosa tenerezza? Nessuno dei tuoi ti amo va perduto. Ognuno di essi resta indelebilmente impresso in me. L'anima che si decide a compiere un bene o ad una virtù Forma col suo stesso proposito il seme di quel bene o di quella virtù. Tutte le volte che rinnova il suo esercizio, essa innaffia quel seme nel campicello del proprio cuore e quanto più spesso lo irrora, tanto più la pianta cresce bella e rigogliosa, atta a produrre subito frutto. Se invece i suoi atti sono scarsi, quel seme resta come soffocato e seppur produce la pianta, questa cresce esile e non porterà mai frutto. Perciò ripetendo ti amo tu innaffi l'albero dell'amore. Moltiplicando gli atti di pazienza tu innaffi e formi l'albero della pazienza. Rinnovando i tuoi atti nella volontà, tu alimenti e sviluppi l'albero divino ed eterno della vita della mia volontà in te. Nessuna cosa si può formare mediante un atto solo. Non vi è che il tuo Gesù che possegga questa virtù, perché egli è la stessa potenza creatrice. L'uomo invece deve ripetere sem pre il medesimo atto e formare così stilla a stilla il bene che vuol compiere. Poco per volta egli ne acquista l'abitudine, che diviene in lui come una seconda natura. Soltanto dopo lungo esercizio egli giunge ad essere possessore della sua opera ed a godere del frutto del suo lavoro. Anche nell'ordine naturale succede così. Nessuno, infatti, diventa maestro leggendo qualche rara volta un libro. Nessuno raccoglie in un sol colpo i frutti del proprio campo. Nel ripetere sempre lo stesso atto si dimostra che si ama e si apprezza ciò che si esegue e che si vuole possa derne l'effetto. Perciò, ripeti senza stancarti mai il tuo ti amo, ti amo, ti amo. E il 2 ottobre 1913, Vol. 11, Luisa scrive: avendo fatto la comunione, stavo dicendo a Gesù, ti amo. E lui mi ha detto, figlia mia, vuoi amarmi davvero? Di, Gesù, ti amo con la tua volontà, e siccome la mia volontà riempie cielo e terra, il tuo amore mi circonderà ovunque e il tuo ti amo si ripercuoterà lassù nei cieli e fin nel profondo degli abissi. Così, se vuoi dire ti adoro, ti benedico, ti lodo, ti ringrazio, lo dirai unita con la mia volontà e riempirai cielo e terra di adorazioni, di benedizioni, di lodi, di ringraziamenti, nella mia volontà. Queste sono cose semplici, facili ed immense. La mia volontà è tutto, tanto che gli stessi miei attributi, che sono un atto semplice della mia volontà, sicché se la giustizia, la bontà, la sapienza, la fortezza fanno il loro corso, la mia volontà le precede, le accompagna, le mette in atto di operare. Insomma, non si spostano un punto dal mio volere. Perciò, chi prende la mia volontà prende tutto. Anzi può dire che la sua vita è finita. Finite le debolezze, le tentazioni, le passioni, le miserie. Perché in chi fa il mio volere tutte le cose perdono i loro diritti. Perché il mio volere ha il primato su tutto e diritto a tutto. All'inizio della giornata. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, nel mio lavarmi e lava l'anima mia da ogni macchia. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, nel mio vestirmi e vestimi con la tua luce. Gesù, Ti amo con la tua volontà. Vieni. Divina volontà. Nel mio mangiare e nutrimi con il tuo cibo. Ho fame di te. Divina volontà. Mio Dio e mio Signore. Tu vuoi darmi amore e ricevere da me amore. Tu vuoi sfogarti in amore con la tua creatura. Ed io voglio essere tutto amore per te. Perché tu possa versare in me tutti i tuoi sfoghi d'amore e le tue dolcezze. Nel tuo volere divino io voglio tutto ricevere dal tuo amore. Ogni cosa come frutto del tuo amore. Ogni croce e sofferenza. Ogni circostanza avversa della vita ed ogni difficoltà. Sia pur spirituale e le stesse tentazioni e gli stessi mali. Tutto è per me scala per raggiungere il cielo ed è scala per far scendere il cielo sulla terra. Niente più mi separerà da te. Mio dolce Gesù. Perché sempre la mia volontà voglio sia fusa nella tua. Sento il grande bisogno di fare ciò che fai tu nella tua umanità e ripetere le tue stesse parole e come te ed in te. Voglio ripetere ciò che fa il Padre e far rivivere il Padre anche nella vita mia come è nella tua vita. Perché la volontà divina sei tu stesso. Padre mio. Sei tu. Padre. Che vieni a vivere e ad amare e trionfare nei figli tuoi. Padre mio e mio Dio. Io nulla so fare senza la tua volontà come mia vita. Poiché son troppo piccolo ed incapace di tutto. Ecco perché io vengo a vivere tutto a spese della tua volontà divina ed a prendere tutto dalla tua volontà. Per poterti poi tutto a te ridare. O mio sovrano Signore. Voglio fare il commercio più bello. Voglio prendere Dio e dare Dio a Dio. Voglio che il mio scambio d'amore tra me e te, Dio mio, sia il riflesso di quello stesso scambio d'amore che corre tra te, Dio Padre e te, Figlio Dio, dal quale procedi tu, Spirito Santo Amore. Perciò, vieni, volontà divina, vieni, ho fame di te. Vieni a darmi la tua vita. Vieni a saziarmi di te. Altrimenti io muoio. Vieni a nutrire la mia vita di ogni fiat che esce dalla bocca di Dio. Voglio nutrirmi del fiat che ricevo nell'aria che respiro. Voglio nutrirmi di quel fiat che ricevo nel cibo che mi nutre e del fiat che ricevo nell'acqua che mi lava. Del fiat che ricevo nella croce che il fratello mi comunica e del fiat che ricevo nel camminare e nel parlare. Voglio nutrirmi di ogni fiat che tu, Signore Dio mio, pronunci in me per creare la tua stessa vita in me. Voglio nutrirmi tante volte della tua parola unendo altrettanti miei fiat al fiat tuo che continuamente a me doni. Voglio ovunque, in ogni atto che mi porgi, riconoscere e ricevere la vita della tua volontà divina. Voglio con te nutrirmi, o mio amato Gesù, di ogni parola che esce dalla bocca del Padre tuo, in ogni atto che io compio, in ogni atto che la volontà tua divina mi comunica. Ho fame di te. Volontà divina. Vieni a nutrirmi di te. Altrimenti io muoio. Confronta. Volume 34, 05, 01, 1936. Vieni. Divina volontà. A palpitare nel mio cuore. Gesù. Tu hai creato. Per mio amore. Il mio cuore. e con la tua volontà onnipotente lo mantieni in vita.